Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Alma, nella trasmissione in particolare I colori dell'anima. Sono le 21:05 e in compagnia di Rosanna e Anna Maria. Buonasera Anna Maria. Buonasera. Quindi in compagnia di Rosanna e Anna Maria resterete fino alle 22 circa. Intanto salutiamo i nostri colleghi di Nous voulons savoir che stanno lasciando la radio e cominciamo appunto la nostra trasmissione, che è la seconda, dopo diciamo le vacanze estive, quindi ci auguriamo che tutti abbiate trascorso delle belle vacanze. Le tue come sono state, Anna Maria? Ovviamente le vacanze sono sempre belle. Certo, sono un po' lontane, vero? Brevi, ma belle. Ma certo. L'importante è godere quei pochi giorni, infatti, che abbiamo. E averne un bel ricordo, magari. Esattamente. Che poi con quello ci stiamo tutto l'anno, giusto? Qui a Bruxelles, sì. Allora, qualche piccolo, diciamo, qualche piccola informazione. Come sapete, Radio Alma trasmette nella frequenza 101.9, ma è possibile ascoltare anche la radio via internet attraverso il sito radioalma.eu e lì troverete appunto una piccola icona dove c'è scritto direct, quindi basta collegarsi con questa icona ed è possibile ascoltare la radio quindi tramite internet. Potete anche vedere, no, più che vedere, ascoltare le trasmissioni passate attraverso il nostro blog, che è radioalma.icolori dell'anima, quindi lì troverete le trasmissioni che sono state registrate nel corso di questi mesi, di questi anni, e che quindi potrete riascoltare. Naturalmente vedete i titoli, vedete gli argomenti e scegliete eventualmente quello che vi interessa. Potete anche telefonarci, giusto? Giusto, potete telefonarci allo 02 345 26 56. Benissimo, allora nei colori dell'anima oggi parliamo dello spreco di cibo. E lo spreco di cibo è un argomento di cui sentiamo spesso parlare, però abbiamo preso così l'occasione di questa trasmissione per fare un po' il punto della situazione. Intanto possiamo cominciare col dare qualche dato, Anna Maria, sì, giusto? Sì, possiamo introdurre l'argomento in maniera seria, visto che si tratta di un argomento piuttosto serio. Certo. Allora, io inizierei col dire che ogni anno in Italia finiscono tra i rifiuti tra i 10 e i 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per un valore di circa 37 miliardi di euro, abbastanza impressionante. Cibo che basterebbe a sfamare, secondo la Coldiretti, circa 44 milioni di persone. L'Unione Europea, infatti, comincia a mobilitarsi perché vuol fare del 2014 l'anno europeo contro lo spreco alimentare. Intanto possiamo anche fare ognuno la sua parte. I dati dello spreco alimentare in Italia lasciano veramente senza parole. Allora, emerge il ritratto di un paese che sperpera risorse preziose in tutti i passaggi dalla catena della produzione e del consumo, dalla terra alla tavola, passando anche per la distribuzione. I dati più sconvolgenti sono che, mentre in Grecia ci arrivano delle notizie di donne e uomini che sono costretti a frugare nei cassonetti dell'immondizia alla ricerca di cibo, noi non ci facciamo ancora presente questo grosso problema. Inoltre, l'Ufficio Statistico dell'Unione Europea rivela che il 24,5% della popolazione italiana, quindi un italiano su quattro, è a rischio povertà. Ancora di più, insomma, ora che anche l'Occidente scopre della propria pelle i frutti di politiche che subordinano ogni forma di vita umana e non alla legge del profitto. E le questioni del modello di sviluppo capitalistico e dello spreco alimentare non sono scollegate. Infatti, dentro la tendenza allo spreco c'è anche all'opera quella chiamata al consumo permanente e compulsivo, perché in fondo è questo che ci dice la pubblicità, no Anna Maria? Sì. Che ci fa comprare più del necessario, che ci rende suscettibili a promozioni e trovate pubblicitarie. E io sono una vittima. No, siamo tutti vittime, altro che. C'è il tempo di vita che proprio viene consumato, anche poi non, il tempo è tutto preso dal lavoro, non c'è spazio per scegliere cosa mangiare e rendere appetibili i prodotti di rapida preparazione, quindi è ovvio che poi si va a finire sempre in questo tipo di prodotti. E oltretutto, che cosa succede? Che si lasciano in fondo al frigorifero gli alimenti che invece richiederebbero più tempo, quindi c'è la merce senza storia di cui non conosciamo la fatica, i costi ambientali, lo sfruttamento del lavoro per produrla, il chilo di carne acquistato a pochi euro su cui non abbiamo informazioni né siamo a conoscenza delle condizioni in cui vive un animale allevato, di come possa essere nutrito. E questo probabilmente che trovo grave, che capisco che ci possono essere le offerte, ma probabilmente le offerte non dovrebbero essere fatte sugli alimenti che invece hanno bisogno di essere comprati così come sono, e si dovrebbe spendere solo sugli alimenti. Sul resto si può anche risparmiare, ma sugli alimenti no. Sì, gli alimenti devono essere sempre indubbiamente di prima qualità. Infatti dovrebbero essere così. Dovrebbero essere, esattamente. E vorrei anche ricordare che prima degli sprechi in tavola c'è anche un'intera filiera segnata di perdite. Queste perdite risalgono più o meno al 25% della frutta e della verdura che sono gettate prima di arrivare addirittura nelle nostre case, e migliaia di tonnellate di prodotti non vengono neanche raccolti, questo lo sappiamo tutti. Parliamo anche degli avanzi delle mense scolastiche e delle mense aziendali. E poi c'è addirittura un buco nero della distribuzione, cioè i prodotti deperibili invenduti e le merci in scadenza che tante associazioni tentano oggi di recuperare e salvare dalla discarica per poter garantire magari a chi ha più problemi dal punto di vista economico. Teniamo presente che comunque il cibo che si decompone in discarica produce anche gas e contribuisce quindi al riscaldamento globale. Quindi, prima di andare avanti con questo argomento molto così allegro, esatto, vogliamo mettere un po' di musica? Allora sì, dunque io vi propongo un altro brano di un musicista abruzzese che si chiama Luigi Friotto, è un musicista diciamo agli albori, non è noto, e prima vi ho fatto già ascoltare un suo brano che si chiama Silenzi da un temporale, un brano suo, musica e parole scritti da lui. Adesso invece vi faccio ascoltare un brano di De André, si chiama Dolce Nera ed è quindi interpretato appunto da Luigi Friotto. Ci ritroviamo fra pochissimi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9. E questo era Luigi Friotto, un cantante emergente abruzzese che interpretava Dolce Nera di De André. State ascoltando I Colori dell'Anima nella vostra radio di Bruxelles 101.9 Radio Alma. Io sono in compagnia di Anna Maria e stiamo parlando dello spreco di cibo. Perché sullo spreco, sul tema degli sprechi sta lavorando anche il Parlamento europeo, come detto poc'anzi, con una proposta di proclamare l'anno 2014 anno europeo contro lo spreco alimentare. E attraverso la risoluzione in materia dell'eurodeputato Salvatore Caronna, approvata dai parlamentari a larga maggioranza. Tra le questioni affrontate nel documento, anche quella del tempo di vita di un prodotto. Si chiede, ad esempio, di affiancare all'attuale scadenza commerciale, dopo la quale l'alimento è ancora commestibile ma perde alcune sue proprietà, la scadenza per la salute, e di favorire gli operatori della grande distribuzione che recuperano i prodotti prossimi alla scadenza, offrendoli ad associazioni e mettendoli in vendita a prezzi inferiori. Ma c'è anche attenzione agli imballaggi, con la richiesta di puntare su innovazioni che permettano di ridurre l'utilizzo di plastiche e cartone, che vediamo in grande quantità nei supermercati, giusto? Assolutamente. Dunque, questa iniziativa aspetta adesso alla Commissione, da cui si attende una direttiva per ridurre gli sprechi del 50% entro il 2025. Nell'attesa, considerando i tempi delle istituzioni comunitarie, ciascuno di noi ha la possibilità di cominciare a costruire il traguardo. Non so, per esempio, blocchetto e penna prima di fare la spesa, magari per comprare solo il necessario, congelare il cibo che è in eccesso, un po' di fantasia per recuperare gli avanzi. Se ormai è troppo tardi, perché a un giardino si potrebbe cimentare nel compostaggio domestico. Io non sono molto due nel compostaggio. Ma magari non c'hai il giardino, no? Non ho il giardino, ecco, ma sembra che non sia una scusa. Allora, molte di queste informazioni volevo segnalare, sono state prese da un sito che si chiama Il Cambiamento, scritto proprio così, ilcambiamento.it. Io però vorrei segnalare a Anna Maria un'interessante iniziativa. Si tratta della Good Food March, la marcia del cibo buono, degli alimenti buoni contro lo spreco di cibo, da Monaco a Bruxelles. Il coordinamento europeo si trova in via Campesina e l'associazione Slow Food promuovono insieme ad altre organizzazioni la manifestazione che si chiama appunto Good Food March contro lo spreco di cibo, che è una manifestazione ideata proprio allo scopo di chiedere una politica agricola comune, cioè la cosiddetta PAC, che assicuri buon cibo e una buona agricoltura. Infatti, Rosanna, la manifestazione è iniziata il 25 agosto a Monaco di Baviera. È una marcia che prevede una serie di tappe di iniziative in giro per l'Europa, che si concluderanno il 19 settembre a Bruxelles, quindi a breve, dove si terrà una conferenza stampa al Parlamento europeo, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos. Ciolos, credo che sia così, non so. Chiedo scusa per la mia pronuncia. È il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ed il presidente di Slow Food, Carlo Petrini, ovviamente. Ecco, quindi, insomma, questa marcia del cibo buono sta per terminare, si concluderà proprio fra 3 giorni, visto che oggi è il 17 settembre, qui a Bruxelles. Speriamo che anche questa iniziativa porti qualcosa di buono. Allora, io proporrei un'altra pausa musicale, sempre qui ai Colori dell'Anima. Ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Bene, dopo questa bellissima canzone di Anna Ox che io adoro, ritorniamo a parlare del nostro argomento. Vediamo se sai come si intitola. Adesso ti metto alla prova. Lupo solitario. No. No, ups. Tutti i brividi del mondo. Non ho capito niente. Però la canzone la conosco, giuro. Sì, ti credo. Sì. Va bene, vai. Va bene. Allora, Rosanna, come stavamo dicendo, parlavamo appunto di questi sprechi alimentari e vorrei farvi notare che rappresentano il 2,3% del PIL, cioè del prodotto interno lordo. In questi tempi di spending review, infatti, urge una waste review. Che significa? Significa che combattere gli sprechi alimentari non fa bene solo all'ambiente, ma anche all'intera economia italiana. Solo infatti con il cosiddetto ecorisparmio da attuare con i comportamenti irresponsabili si potrebbero recuperare fino a 3 punti del PIL. Lo sapevi, Rosanna? No, non lo sapevo. Addirittura fino a 3 punti. Addirittura, infatti, è quanto emerge dal convegno Spreco Zero. Energia, acqua, cibo e materiali. Quindi questo sarebbe lo spending review ecologica. Dunque, come già detto, solo lo spreco alimentare vale nel nostro paese il 2,3 del PIL. Per dare un'idea, 10 volte la percentuale che lo Stato impiega per lo sviluppo del turismo o per finanziare i beni culturali. Vi sembra troppo astratto? Basta riportare la cifra nella vita di tutti i giorni. Vi faccio un esempio. Ogni anno una famiglia media getta nella spazzatura 1.600 euro di cibo andato a male o semplicemente non utilizzato. Secondo il libro nero dello spreco in Italia di Andrea Segre, a cui accenneremo alla fine della trasmissione, gli italiani gettano nella spazzatura 3,6 milioni di tonnellate all'anno di cibo ancora buono. E infatti, secondo questo, questo esperto Andrea Segre, che tra l'altro è ideatore di Last Minute Market, la vera spending review dovrebbe fondarsi su una waste review, a cui accennavi tu, Anna Maria, cioè una revisione degli sprechi basata su un nuovo approccio ecologico e sostenibile ai criteri di spesa e risparmio nazionali. Infatti lui dice, Andrea Segre, combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze deve essere priorità economica, ecologica e sociale per la politica, le istituzioni, le amministrazioni locali, le imprese e la società civile. Ogni spreco si porta dietro altri sprechi e ogni azione di risparmio si porta dietro altri risparmi. Ad esempio, lo spreco di cibo e di energia spesso comporta un grande impiego di acqua. Nel 2010 abbiamo buttato via 12,6 miliardi di metri cubi d'acqua impiegati nella produzione di 14 milioni di tonnellate di prodotti agricoli abbandonati nei campi, quindi solo per quelli abbandonati nei campi. Ma non sono solo le famiglie ad alimentare la spirale dello spreco. Infatti, come hai detto anche tu prima, Anna Maria, la grande distribuzione organizzata spreca circa 1 miliardo di euro ogni anno in cibo che si butta. A quanto corrisponde, basta pensare che da sola potrebbe sfamare almeno 600.000 persone. È proprio così. Infatti, che se con leggerezza buttiamo il cibo avanzato, dovremmo metterci una mano sulla coscienza, sapendo che catena di sprechi abbiamo avviato. Questa sera non dormiamo. Sapevi, no. Rosanna, che insieme al cibo buttiamo via anche il 3% dell'energia? Secondo gli esperti, infatti, il cattivo uso delle risorse si trasforma in inquinamento e in un aumento del disagio sociale e addirittura della mortalità. È incredibile, ma è vero. In Europa, secondo uno studio condotto dalla Fuel Poverty, 150 milioni di cittadini non sono in grado di pagare i costi relativi al riscaldamento, al funzionamento degli elettrodomestici e al gas per cucinare. Sembra che in Italia la percentuale sia attorno al 10% della popolazione totale. Non solo. Produrre cibo non viene utilizzato comporta l'emissione di oltre 4 milioni di tonnellate di CO2, cioè di anidride carbonica, l'utilizzo di più di 1,2 miliardi di metri cubi di acqua. Tutto ciò equivale allo sperpero del 3% del consumo finale di energia del nostro paese, circa il fabbisogno energetico di 1.650.000 persone. Sì, e devo dire, Anna Maria, che questo consumo di energia probabilmente è l'aspetto che mi ha colpito di più di questo argomento, cioè lo spreco di cibo. Sappiamo tutti che obiettivamente è una cosa brutta, perché c'è gente che non ha da mangiare e invece ci siamo noi che stiamo lì a buttare. Però che questo buttare il cibo comporti a sua volta consumo di energia, quindi il cibo che per essere prodotto consuma energia. Esatto. E poi anche quando non viene consumato, quindi quando viene sprecato, consuma altra energia. Assolutamente. E diciamo, la cosa che io trovo più scioccante di queste riflessioni che stiamo facendo stasera. Perché in realtà non ci si ferma mai a pensare a questo aspetto, certo. È un aspetto che magari riteniamo marginale, però certo. In realtà non lo è. Certo. Non lo è affatto. Allora, io proporrei di andare avanti. Intanto vogliamo dire il colore che abbiamo scelto per questo argomento, per lo spreco di rifiuti? Avevamo scelto il marrone. Puoi spiegarlo? Allora, dal mio punto di vista, come ti avevo detto prima, può avere un aspetto positivo e un aspetto negativo. Ovviamente l'aspetto negativo è quello della perdita e del... Irrancidimento dei prodotti, sì, insomma, che ne so, la frutta che si rovina diventa marrone, per che esempio. Che si rovina, però come vedremo poi più avanti, quando parleremo anche di, diciamo così, della crisi, del fatto che bisogna guardare le cose in maniera diversa, può essere un ritorno anche alla terra, cioè un ritorno a quello che sono i valori che c'erano un tempo, alle cose che... Quindi marrone come colore della terra. Come colore della terra da cui vengono tutte le risorse, non ce ne dimentichiamo. Certo. Ecco, questo marrone mi piace di più. Non avevo dubbi. Va bene, allora ci ritroviamo fra pochissimi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati, a fra poco. Ecco, sfumo Claudio Baglioni perché vorrei sapere se Annalisa è in linea, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Sì, guarda, se puoi parlare un po' più ad alta voce? Sì, provo a urlare. Va bene. Allora, ciao Annalisa. Ciao a tutti. Vi sto chiamando dall'Italia, precisamente da Monza, vicino a Milano. Ah, Annalisa, per i radioascoltatori dei Colori dell'Anima, si ricorderanno che è venuta varie volte qui in trasmissione, invece adesso ci chiama dall'Italia. Così non perde le buone abitudini, perché ci manca. Ci manchi, ci manchi. Voi ci mancate. Vabbè. Poi con questo interessantissimo argomento... Domani farei la spesa con carta e penna, vero? Assolutamente. Brava, brava. Che pur di non buttare il pan grattato, quando sono fatto i bagagli da Bruxelles, sì, l'ho nascosto nella valigia di mio marito, che se l'è portato a sua insaputa fino a Milano. Ah, guarda, caspita. A questo non avevamo pensato. Non spreco. Brava, brava. Va bene, senti Annalisa, grazie tante di aver chiamato, ci ha fatto molto piacere. Almeno siamo sicuri che abbiamo una radioascoltatrice internazionale, vorrei dire. Internazionale, infatti. Anche a me ha fatto tanto piacere sentirvi. Continuo ad ascoltarvi. Va bene, spero che tu possa venire un fine settimana e magari rimanere anche lunedì, così vieni con noi in radio. Che dici? Dai, ci provo. Va bene. Ti aspettiamo. Va bene. Ciao Annalisa. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Annalisa. Ciao, ciao. Allora, questa era Annalisa, che ci ha fatto molto piacere ascoltare, quindi su Radio Alma, i colori dell'anima. Ricominciamo a parlare del nostro argomento, che come dicevamo prima è lo spreco di cibo. Allora, diamo un dato: un chilo di carne uguale 16.000 litri di acqua, cioè per produrre un chilo di carne ci vogliono 16.000 litri di acqua e le risorse idriche scarseggiano, motivo per cui uno studio ha calcolato che entro il 2050 dovremo diventare vegetariani. A livello planetario, il 70% dei consumi di acqua dolce è impiegato nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento. Ogni chilo di carne di manzo costa 16.000 litri di acqua e per un'alimentazione a base di carne occorrono circa 3.600 litri di acqua al giorno. Mentre per i vegetariani ne bastano 2.300, sembrerebbe. Io direi che senza rinunciare alla carne, scelta che molti non sarebbero disposti a fare, me compresa, piccole scelte possono comunque fare la differenza. Ad esempio, sarebbe preferibile consumare carne di maiale o di pollo, perché rispettivamente corrispondono a 1.400 e 1.110 litri di acqua virtuale, ovviamente, per braciola da 300 grammi e per petto di pollo dello stesso peso. Invece quella di manzo, di pari peso, sono 4.650 litri di acqua. Piccoli accorgimenti che potrebbero avere un impatto positivo sulla nostra impronta idrica. In un anno, infatti, la dieta mediterranea utilizza poco più di 1.700 metri cubi di acqua pro capite, contro i 2.600 metri cubi di quella anglosassone. Io mi domando, ma come li fanno questi conteggi? Ma che ne so, guarda, comunque effettivamente sono troppi numeri, ma insomma quello che si vuole dire è che effettivamente noi forse associamo l'acqua solo alle piante, no? Perché tu c'hai le piante, sì, c'hai il grano, che ne so, e allora pensi che devono avere l'acqua. In realtà non ci rendiamo conto che gli animali hanno bisogno ancora di più di acqua, certo, non solo per bere, ma proprio per, che ne so, per essere puliti, per tutto. Certo. E cosa può fare quindi una famiglia per risparmiare fino a 620 euro all'anno? Cosa può fare eliminando gli sprechi? Beh, alcuni suggerimenti già li abbiamo dati a proposito della carne, ma si potrebbe anche preferire l'acqua del rubinetto. Adesso non è che voglio dire che l'acqua delle bottiglie non si compra più, però già quello potrebbe far risparmiare 200 euro. Usare la sporta per guadagnare 50 euro, tenere chiuse le tende nelle stanze, insomma. Poi sono una serie di accorgimenti che sicuramente ognuno di noi cerca di fare nelle case. Comunque, con una serie di accorgimenti, per esempio, si possono risparmiare fino a 100 euro all'anno di riscaldamento e quindi in questo modo si riducono le emissioni atmosferiche di 250 kg di anidride carbonica. Esatto, si può addirittura risparmiare nella guida. Utilizzando per esempio il sistema Eco Drive, togliendo il portapacchi, e questa è una cosa carinissima, il portapacchi del tettuccio quando non è indispensabile, sì, perché tutti, sì, abbiamo un portapacchi nel, cioè, tettuccio, magari non tutti, quindi controllando lo stato di consumo dei pneumatici, assolutamente sono d'accordo, e limitando l'utilizzo dell'aria condizionata. Queste accortezze ridurrebbero le spese annuali per il carburante di circa 200 euro, euro, sì, e le emissioni atmosferiche di 240 kg di anidride carbonica. Probabilmente è difficile che ciascuno di noi utilizzi tutti questi accorgimenti, però se facciamo almeno un pezzetto, forse possiamo contribuire a risultati significativi. Insomma, proviamoci. Allora, io direi di ascoltare un altro brano musicale. Naturalmente ci ritroviamo fra pochissimi minuti, sono le 21:42, quindi ci avviamo quasi verso la fine della trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima, che come sapete è sullo spreco dei rifiuti e a cui abbiamo associato il colore marrone. A fra pochi minuti su Radio Alma 101.9. E questa era Irene Grandi, naturalmente nei Colori dell'Anima, trasmissione che va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Alma. Allora, sul tema dello spreco dei rifiuti, che ci dice Anna Maria? Io vi do una notizia interessante, che ci sono dei piccoli geni che hanno inventato una cosa molto carina, con la quale un'app con la quale è possibile localizzare il surplus di cibo. Parliamo di un'applicazione, ovviamente, pensata per piccoli negozi e ristoranti che sono meno raggiungibili rispetto alla grande distribuzione organizzata. Infatti i ristoranti, i piccoli negozi e non grande distribuzione, la media distribuzione di cibo ne avanza sempre. E per smistare le eccedenze della grande distribuzione organizzata e della filiera agroalimentare esistono già grandi organizzazioni come il Banco Alimentare e Last Minute Market. Ora anche in realtà più minuta, infatti possono riposizionare il cibo in eccesso con un meccanismo totalmente gratuito. Ebbene sì, questa app, come hai detto tu, è stata ideata da Adolfo Villafiorita, che è responsabile dell'unità ICT for Good della Fondazione Bruno Kessler, quindi che si trova nel Trentino, e sviluppata da Aaron Ciaghi, è un ricercatore dello stesso gruppo. L'applicazione si chiama Bring the Food, quindi porta il cibo, disponibile su Android o sul web. Bring the Food segue un percorso lineare: chi ha cibo in eccesso lo offre, chi ne ha bisogno lo raccoglie. Rispetto ai giganti del settore, la nuova app considera interlocutori privilegiati piccoli negozi e ristorazione, perché mentre la grande distribuzione organizzata ha un eccesso predicibile e costante, spiega Villafiorita, la piccola distribuzione ha un avanzo che può variare di giorno in giorno e di settimana in settimana. Bring the Food offre sia a privati che a ONG un'informazione più accurata e puntuale sul surplus di cibo e sulla sua possibilità di raccolta. Disponibile in italiano, inglese e spagnolo, l'applicazione richiede una registrazione iniziale come donatore o come collector, cioè come raccoglitore. In 30 secondi il donatore può inserire informazioni relative al tipo di alimento o alla sua scadenza. Questi dati vengono poi geolocalizzati per permettere al collector di individuare le varie offerte e di scegliere quelle più rilevanti a seconda della distanza geografica. Il raccoglitore, collegandosi, può visualizzare tutte le offerte vicine alla sua posizione e bloccare quella che più gli interessa. All'atto della prenotazione gli viene fornita una password che dovrà esibire al donatore al momento della consegna. Esatto. Bring the Food è dotata di un meccanismo di feedback che consente tanto al donatore quanto al collector di esprimere il proprio gradimento sull'efficienza della raccolta e la qualità della donazione. Il sistema di reputazione così creato punta a rendere le transazioni sempre più affidabili e meglio gestite. E insomma, questa app è una cosa simpatica che appunto può risolvere il problema ai negozietti probabilmente. Non solo, ma visto che come precedentemente detto è un'applicazione sviluppata anche su Android, oggi siamo tutti con questi cellulari di grandissime portata, fanno di tutto, sì, fanno certo, anche il caffè, certo. Insomma si sta in giro e si vede dove il cibo è disponibile e si va a fare la spesa. Certo. Allora, io propongo neanche una pausa musicale, ma il piccolissimo stacchetto dei colori dell'anima, e poi invece andremo nella parte finale della trasmissione di oggi per menzionarvi soltanto alcuni libri che abbiamo scelto, che sono interessanti e che secondo noi ci aiutano ovviamente ad approfondire l'argomento. Ci ritroviamo quindi fra pochissimo, rimanete sintonizzati. Anna Maria, allora lascio la parola a te per cominciare. Abbiamo selezionato 4 libri che possono essere rilevanti, quindi se ci vuoi parlare. Sì, allora il primo libro che vorrei introdurre è di Andrè Segre e Luca. Che abbiamo già menzionato esattamente, prima. Esattamente, e Luca Falasconi. Il titolo è Il libro nero dello spreco in Italia, il cibo. Allora, in questo libro il contenuto è questo, che dal 1974 a oggi lo spreco alimentare nel mondo è aumentato del 50%. Il 40% del cibo prodotto negli Stati Uniti viene gettato. In Svezia, in media, ogni famiglia butta via il 25% del cibo acquistato. E in Italia ogni anno, prima che il cibo giunga nei nostri piatti, se ne perde una quantità che potrebbe soddisfare i fabbisogni alimentari per l'intero anno di 3/4 della popolazione italiana, vale a dire 44.472.914 abitanti per l'esattezza. Beh, questo numero fa impressione, sì. Cioè una quantità... Sì. Si perde prima che arrivi. Una quantità che potrebbe sfamare 44 milioni di persone, cioè abbiamo dato tanti numeri, ma questo devo dire lo trovo impressionante. Effettivamente. Lo spreco alimentare è stato per troppo tempo sottostimato, poco indagato e poco documentato soprattutto. Solo negli ultimi anni, complici la persistente crisi economica globale e il crescente allarme per cambiamento climatico, si è acuita l'attenzione per questo problema. Lo scopo del libro Nello spreco in Italia il cibo, il libro nero sullo spreco in Italia il cibo, è quello di analizzare la filiera agroalimentare ed elaborare una stima degli sprechi e una valutazione delle conseguenze economiche, ambientali, nutrizionali e sociali generate dalla gestione delle eccedenze. Il risultato? Consumare meno, ma soprattutto meglio, è possibile, basta solo volerlo. Allora, io invece segnalo un altro libro che si chiama Il cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo utilizzare, di Tristan Stewart, editore Mondadori. Prezzi dei generi alimentari in costante aumento, tonnellate di cibo prodotto o importato nel Nord America e in Europa e poi inutilizzato, 1 miliardo di persone affamate, il mondo ha un problema. Secondo un'ottica globale, muovendosi dall'Italia alla Cina, dal Pakistan all'Inghilterra e intervistando allevatori di maiali e capitani d'industria, coltivatori di patate e privati cittadini capaci di soluzioni innovative, Tristan Stewart disegna l'Atlante inedito di un mondo povero e sprecone, dove però accanto all'irrazionalità consumistica si affacciano proposte, idee concrete e possibili vie d'uscita. Io invece voglio introdurre un altro libro che mi sembrava molto carino, L'ecocucina. Ecocucina è il nuovo libro di Lisa Casali. Non è solo un libro di ricette particolari e gustose, ma è un vero e proprio manuale di cucina controcorrente. Scrive l'autrice, si tratta solo di imparare le tecniche di base. Dopo, come me, non sarete più capaci di buttare via le foglie esterne dei carciofi o i gambi degli asparagi. Non è necessario cambiare drasticamente il proprio stile di vita, è sufficiente modificare qualche abitudine per ridurre la propria impronta ecologica. Fatte queste premesse, preparatevi a imparare le ricette più inaspettate. Ricette per ogni ortaggio o frutto con gli scarti. Per ognuna è indicato il costo e il livello di risparmio che si può ottenere. Ma la vera sorpresa è preparare piatti belli e buoni. Ed è possibile, perché le parti scartate sono spesso più ricche dal punto di vista nutrizionale delle parti cosiddette nobili. E con queste si possono realizzare ricette colorate e fantasiose, ricche di sapore. Tra le ricette troverete le crocchette di baccelli al sesamo, il risotto agli agrumi preparati con le bucce di arancia e il limone, le cocotte di porri e croste di grana, l'insalata di patate con crema di foglie di ravanello, il cocktail al sedano e zenzero e i petali di pesca canditi e tante altre idee buone, ecologiche e low cost. Mamma mia, mi è venuta proprio voglia di comprare, sì, di comprare questo libro. E per ultimo invece volevo segnalare un altro libro che non c'entra con lo spreco di cibo, ma che c'entra invece con la crisi, e si chiama La dieta mediterranea ai tempi della crisi. Con la crisi a farne le spese è anche la dieta mediterranea, che ormai è un lusso che pochi possono concedersi. Le famiglie a basso medio reddito, cioè fino a 25.000 euro all'anno, non consumano quasi più l'olio d'oliva e le verdure. Consumano poche carni bianche e cereali. Nel carrello mettono invece carni precotte, margarina, grassi animali e alcolici. Segue i principi della dieta mediterranea dal 50 al 68% di chi guadagna almeno 40.000 euro all'anno, comprando pesce, carni bianche, frutta, legumi, yogurt e cereali. Ad analizzare gli effetti dello spread sulle abitudini alimentari di casa nostra sono i ricercatori Maria Laura Bonaccio e Giovanni De Gaetano, che sono appunto autori del libro La dieta mediterranea ai tempi della crisi, un libro edito dal Pensiero Scientifico Editore. Allora, io direi che siamo veramente arrivati alla fine, diciamo che è stato simpatico, non simpatico, diciamo interessante come conoscenza anche nostra, se vogliamo, sì, approfondire un po' questo argomento e quindi suggerirvi anche dei libri. Ovviamente se voi avete dei suggerimenti su alcuni argomenti potete anche scriverci a icoloridellanima@radioalma.eu e potete suggerirci un argomento che noi potremmo trattare appunto la sera di lunedì tra le 21 e le 22. Allora, cara Anna Maria, ti ringrazio molto. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci ascoltano. Infatti, grazie a tutti coloro che ci ascoltano e naturalmente la lunedì prossimo ci saranno i nostri colleghi, quindi sempre ogni lunedì ci sarà qualcuno di noi a farvi compagnia con I colori dell'anima. Buona serata. Buonasera a tutti.